La guerra delle maschere, dei blocchi nella strada, raccontano le cronache di un'alba tramontata e dell'autodistruzione programmata. I dischi neri tra le nuvole stanno coprendo il sole, nascoste tra i palazzi come i topi le persone. Le vostre case andate in pezzi come pezzi di stagnole, e voi vi nascondete nella luce di un lampione. Promettimi che questa volta resterai, che anche se perderai una guerra rimarremo noi, che sei cresciuto ed ora affronti tutto questo come un uomo, e che non hai paura di restare solo. E quando tutto intorno si starà spegnendo, saremo parte delle cavie per l'esperimento, spogliati con violenza delle nostre presunzioni, dottrine collettive predisposte a cloni. E questa volta saprò ridere dei vostri sbagli, della bruciata come simboli sui vostri campi. Noi vuole annulla tra la gente, camminiamo avanti, infuglinare gli occhi bassi senza mai fermarci. E questa volta saprò ridere dei vostri sbagli, della bruciata come simboli sui vostri campi. Noi vuole annulla tra la gente, camminiamo avanti, infuglinare gli occhi bassi senza mai fermarci. Raccontavano di sonde, di pallone aerospaziali, di pazzi visionari e spazzature sui giornali. La tesi del complotto è il nuovo ordine mondiale, ci offre il sacrificio come capre su un altare da sgozzare. Colonie in tute bianche prenderanno posizione, sirene sullo sfondo invitano all'evacuazione. La resistenza umana imbraccia armi per proteggersi e difendere una razza umana che non merita di esistere. Il nero fumo della cenere trasforma in grigio il blu dell'etere, e pretendere che tutto passi meno di un istante, nascosto dietro un'altra croce da cui prendo le distanze. Scritte sulla pelle incise a graffi le tue regole, scelte della strada che hai deciso di percorrere. Tieni sempre a mente che è il nemico da sconfiggere, e i buoni a nulla marceranno sopra l'adice. E questa volta saprò ridere dei vostri sbagli, della bruciata come simboli sui vostri campi. E i buoni a nulla